Do il buon pomeriggio a Flavia Montecchi, responsabile del progetto Adela, archivio domestico elaborato. Buon pomeriggio appunto Flavia e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio, grazie. Allora Flavia, innanzitutto ti chiederei di raccontarci un po' in che cosa consiste questo progetto Adela, archivio domestico elaborato. Sì, allora, in realtà Adela appunto nasce un anno fa, esattamente un anno fa, quindi ci stiamo lavorando da un anno. L'idea era quella di raccogliere tutte quelle lettere, fotografie, cartoline che sono racchiuse, nascoste più che racchiuse in cassetti o scatole delle famiglie fondamentalmente. Per circoscrivere diciamo il raggio di azione siamo partiti dal quartiere Borgo Panigale-Reno, da cui poi abbiamo vinto anche il bando del bilancio partecipativo che ci ha permesso di realizzare di fatto questo progetto, però ecco, l'idea era quella di andare a toccare la questione della memoria domestica per questo archivio domestico familiare, insomma, elaborato, perché la necessità era quella di poi, pensavamo, di digitalizzare tutto questo materiale recuperato per poterlo usare al meglio e quindi integrare con una comunicazione social e digital come poi la nostra società muove, insomma. Quindi questa era un po' l'idea. Diciamo che poi nel corso dell'anno il progetto si è amplificato, sono entrate in gioco un sacco di tematiche interessanti rispetto proprio alla questione di partenza. La cosa che ci ha permesso di contattare e ricevere il materiale che tutt'oggi abbiamo in realtà sono stati dei laboratori di narrazione sulle memorie, di scrittura, sulla ricostruzione di una memoria familiare e anche laboratori di teatro che sono tuttora attivi. L'ultima lezione ci sarà proprio giovedì prima dell'inaugurazione del progetto, che ci hanno permesso, quindi laboratori che ci hanno permesso di affrontare le tematiche in modi trasversali così da sensibilizzare gli utenti e a ripartecipare al progetto di raccolta. Come citavi anche tu adesso, ci sarà una mostra che verrà inaugurata il 13 maggio e sarà un po' l'esito, no, finale di questo progetto. Quindi ti volevo chiedere che cosa si potrà trovare all'interno di questa mostra. Sì, esatto. Allora, la mostra sarà appunto inaugurata, come hai detto, il 13, poi è visitabile fino al 30 giugno. Questo è importante perché ci sarà tempo comunque per poterla vedere. In realtà sono proprio, verrà esposta una parte di materiali che abbiamo ricevuto, la loro riproduzione su carta fotografica, quindi non saranno esposti diciamo le copie originali. Questo perché, e questo è stato motivo anche dell'ampliamento del progetto che ci ha fatto soffermare più sulla tematica di come venivano comunicati i ricordi, quindi rispetto ad oggi, anche perché appunto oltre ad essere andati fisicamente nelle case di questi signori che si sono resi molto disponibili, si sono aperti ai loro racconti, alla loro vita privata, ricevevamo anche via WhatsApp, proprio anche via mail, la copia o la fotografia di queste fotografie, di queste cartoline. Quindi la mostra prevede proprio questa riproduzione dall'originale e una rielaborazione interpretazione grafica da parte di un artista, una graphic designer del collettivo Checkpoint Charlie, che è Anna Martinuzzi, che appunto ha lavorato proprio su questo concetto qua, ossia il fatto di ricevere comunque già in forma digitalizzata le foto degli anni 30, anni 40, a seconda poi dell'utente che voleva partecipare e che si metteva in gioco, riadattandole in chiave contemporanea. Quindi in che modo noi veicoliamo oggi le immagini, come tramandiamo un ricordo anche solo di una giornata ad un nostro amico, in che modo, quindi c'è la discussione dei social, c'è il fatto di scambiarsi messaggi con i tweet, con i direct di Instagram, e quindi diciamo che parte di questa mostra racconta anche il processo di comunicazione che è tramutato. Insomma, sarà veramente un tuffo nella Bologna del passato. Sì, sicuramente anche in parte, ovviamente le foto sono foto appunto di famiglie che vivono la piazza, sono foto anche, cioè ci sono oltre alle foto poi riproduzioni di cartoline dell'epoca, specialmente di Borgo Panigale, perché appunto è il quartiere da cui siamo partiti. con la trascrizione poi dei testi dietro le cartoline, quindi che cosa veniva scritto rispetto a, cioè in concomitanza alla cartolina che una famiglia riceveva. Quindi è sia una mostra, diciamo, visiva che anche proprio interpretativa, ecco. Perfetto, Flavia, io ti ringrazio. Vogliamo solo citare prima di concludere l'intervista dove ci sarà appunto la mostra, sì? Esito del progetto. Sì, allora la mostra si terrà alla sede della sala consiliare del quartiere Borgo Panigale, quindi via Battindarno 123, e verrà, diciamo, inaugurata da una performance teatrale che si terrà nel giardino della sala espositiva, a cura del laboratorio Adela e l'attrice Susanna Cornero, che ha condotto appunto questo laboratorio proprio per la mostra. Quindi venerdì dalle 18:30 in poi noi saremo lì. Perfetto, grazie mille Flavia. Grazie mille a voi. Ciao, ciao a tutti.